Besanello era sempre stato più unito, non si espandeva così come il Calviano, no? Il Calviano, perché anche adesso, per esempio, le persone del Calviano non è così aperte come quelle di Volant, per esempio, o quelle dei Nomi, perché non so che resta quella, non so come spiegarle, quell'abitudine forse della volta di essere più distaccati, non è quella riunione come che negli altri paesi.